Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Oggi parliamo di L'ultima sposa di Palmira, scritto da Giuseppe Lupo e pubblicato da Marsilio. Protagonista una donna, Viviana, che fa l'antropologa e che decide di tornare nel paese del padre, Palmira in Basilicata, subito dopo il terremoto dell'80. Ecco come l'autore descrive la sua protagonista. Viviana è una donna che ha rinunciato alla sua vita privata, si è dedicata soltanto allo studio, non si è sposata, non ha avuto figli, ha un rapporto conflittuale con la madre, è assolutamente, come dire, affezionata al padre, come accade spesso nelle figlie femmine. E però, ecco, siccome è una studiosa di civiltà invisibili, diciamo, di luoghi che non ci sono, di paesi del silenzio, quando appunto avviene il terremoto, viene appunto informata da un altro giornalista, da una persona che le conosce, che esiste un paese che manca le carte geografiche, che si chiama Palmira. Allora lei, presa da questa curiosità, si precipita in questo luogo, trova questo luogo nonostante manchi delle carte geografiche e trova un paese in macerie. L'unico luogo, l'unico, diciamo, edificio rimasto in piedi è una falegnameria dove un falegname sta fabbricando i mobili per l'ultima sposa di questo paese. In realtà dietro le spoglie, sotto le spoglie di questo personaggio, si nasconde un atteggiamento, un'idea di mondo, cioè la scienza. Viviana è una donna scienziata, una ricercatrice, una che vuole chiedere e trovare il perché delle cose. A Palmira, che è un luogo misterioso e anche un luogo molto enigmatico, per non dire magico, i perché non ci sono. Comunque non li può intercettare attraverso le coordinate della scienza. Ti devi convertire al mito per conoscere i perché di Palmira. Questo libro è pieno di mito, perché alternato, diciamo, al racconto di Viviana ambientato negli anni Ottanta, ci sono racconti che fanno parte della storia di questo paese. Sì, in realtà il libro ha una simmetria, cioè il racconto di Viviana che ci trattiene in questo paese 2 mesi e scrive un diario, semplicemente un diario di questa sua esperienza, e prende nota di quello che sta facendo. Però poi naturalmente c'è tutto l'altro versante, che è il versante mitico, voglio dire magico, affabulatorio, voglio dire e anche affascinante, che sono i racconti di questo falegname. I racconti di questo falegname che sono scritti nel legno e che il falegname racconta a voce appunto a questa Viviana, sorpreso del fatto che una donna che viene da un mondo lontanissimo come appunto Milano possa essere interessata a queste storie che sembrano quasi delle fandonie, dei miracoli straordinari, fuori dalla portata, diciamo, della razionalità. Per cui c'è tutto l'altro mondo affascinante di questi racconti che narrano la storia di Palmira, dalla fondazione mitica avvenuta per mano di un fondatore che si chiamava Patriarca Maggiore fino agli ultimi istanti prima del terremoto. In realtà il falegname sta scrivendo nel legno la storia di questo paese, perché vuole consegnare nelle mani della sposa vera che si deve sposare, tutta quanta una civiltà che è morta. Il terremoto ha fatto morire una civiltà, l'unica cosa che rimane di una civiltà che muore sono i racconti degli uomini, e quindi il falegname non pensa se non a consegnare, quindi a restituire questa memoria scrivendola nel legno per la sposa. Ecco, che significato hanno questi racconti che Mastro Gerusalemme tramanda in questo modo insolito, appunto incidendoli nel legno? Beh, sono il risultato di una esperienza, di una civiltà, di un mondo comunitario, di una città che non c'è più, di una città che ha del favoloso sin dall'origine, Palmira, sin dal nome del suo fondatore, Patriarca Maggiore, che è un uomo che ha avuto 10 mogli e 40 figli, una città che ha una forma, diciamo, urbanistica come una grande conchiglia, una grande chiocciola, perché tutta questa città nasce intorno alla stanza da letto del fondatore, no? Case, strade, una città di archi, voglio dire, di curve, naturalmente. E in questo, dietro questo discorso si nasconde un'idea di mondo comunitario. A Palmira convivono cristiani, convivono ebrei, convivono musulmani, a Palmira girano anche i morti, a Palmira anche i morti vivono, c'è una convivenza tra vivi e morti che ha quasi del miracoloso. E naturalmente i racconti del falegname sono tutti racconti di miracoli, miracoli che avvengono in maniera strana, strabiliante, che l'antropologa non comprende, o meglio, arriva a comprendere solo quando lei abbandona, come dire, gli strumenti della scienza e si converte al mito. Quando l'antropologa abbandonerà l'idea di trovare i perché di queste cose inspiegabili, allora capirà tutto. Anzi, molto probabilmente si lascerà incarnare dal mito. Dietro questo discorso c'è naturalmente, a livelli voglio dire simbolici, il dialogo tra scienza e mito. Il falegname rappresenta il mito, rappresenta il mondo di un mondo di un meridione favoloso, voglio dire fantasioso, allegorico, visionario. Io credo molto nella letteratura diciamo visionaria, che è una letteratura, voglio dire, come Le mille e una notte, insomma, la letteratura di Cervantes, la letteratura di Ariosto, di Giambattista Basile, cioè un mondo che ha del miracoloso, del favoloso, e che però naturalmente, come spesso succede, poi la fantasia indovina e descrive una realtà assai più efficacemente di quando si racconta la realtà nuda e cruda. Questo falegname, Mastro Gerusalemme, è anche un personaggio un po' burbero. Sì, è un uomo che non parla con nessuno, soprattutto è un uomo che non è più ascoltato da nessuno. Siamo nell'Ottanta, siamo nel momento in cui il meridione è un bivio, insomma, è un bivio tra tradizione e modernità, no? Ormai più nessuno a Palmira si occupa delle storie di questo falegname che sembra un mago, che sembra un po' matto, che sembra un profeta. E infatti il falegname all'inizio rimane meravigliato appunto del fatto che una donna che viene da un altro continente, se vogliamo, rimanga affascinato, per cui rimane anche lui da parte sua perplesso, esterrefatto, ed è contento naturalmente di poter restituire non solo al legno destinato alla sposa, ma anche, se vogliamo, alle orecchie di questa donna, di questa forestiera, di poter restituire tutto il patrimonio di storia che appartengono. In fondo il falegname è uno scrittore, cioè compie le stesse, diciamo, le stesse azioni che vengono compiute, diciamo, da chi scrive, no? Testimoniare di un mondo che non c'è più e conservarlo. In fondo, quando una civiltà scompare, e il terremoto ha fatto scomparire Palmira, quindi ha fatto morire una civiltà, ciò che rimangono sono soltanto le storie. E sono le storie poi in fondo quelle che fruttificano, germinano altre storie e germinano il futuro. Dalle storie degli uomini nascono poi i mondi futuri. A me piace l'idea, insomma, che Palmira, come dire, consegnata nel legno, però poi venga, come dire, salvata da un chicco di grano che è praticamente la risultante di uno di questi tanti misteriosi racconti, appunto magici, voglio dire, un chicco di grano miracoloso, e questo chicco di grano è capace di costruire case durante una notte, è costruire, di guarire malattie, è capace di guarire malattie, è capace, per esempio, di dare un figlio a chi figlio non ha. E Viviana come vive questi racconti che vengono fatti da Mastro Gerusalemme? All'inizio rimane, come dicevo, perplessa, disorientata, no? Perché in fondo non è quasi, come dire, non capisce la lingua del falegname, non capisce, come dire, le coordinate attraverso cui si esprime il falegname. Poi si converte, come sempre, come una persona intelligente dovrebbe fare, si converte al mito. Convertendosi al mito, come dire, abbandona la scienza e abbraccia, voglio dire, questa idea di mondo. Io sono convinto in generale che la scienza, quando si trasforma in arroganza, quando si trasforma in una, come dire, in una cieca convinzione di dominio, no? La scienza può portare alle rovine, può portare verso l'apocalisse. Facciamo un discorso etico, morale. La scienza invece dovrebbe avere a volte l'umiltà di, come dire, abbandonarsi anche a ciò che è inspiegabile, perché anche ciò che è inspiegabile in fondo è qualcosa che appartiene alla natura e quindi avviene. Ecco, l'antropologa compie questo passaggio, insomma, non regredisce dalle sue posizioni, soltanto che intercetta un'altra lingua, che è la lingua del mito. Che cosa ha rappresentato il terremoto dell'80 per quei posti, per la Basilicata, per la Campania? Beh, per tutte quante le civiltà interne dell'Italia intera, insomma, tutto quanto lo stivale, dall'Emilia Romagna fino all'Aspromonte, siamo in un territorio sismico, quindi ci si convive col terremoto da sempre. In particolar modo per quelle aree dell'Irpinia e della Basilicata ha significato uno spartiacque. Io ho vissuto quell'avvenimento, avevo 17 anni ed ho avuto la percezione nel mio piccolo che un mondo davvero fosse morto e che un nuovo mondo cominciasse a vivere. E questo era Giuseppe Lupo, autore di L'ultima sposa di Palmira. Prima di chiudere vi segnalo la rubrica del sito del Sole 24 Ore Rima Privata, personaggi del mondo della cultura che leggono poesie. Questa settimana Andrea Zanzotto, forse il più grande poeta italiano vivente, che il 10 ottobre compie 90 anni. Francesco Carbognin, ricercatore presso il Dipartimento di Italianistica all'Università di Bologna, ha fatto visita a Zanzotto e ha registrato alcune poesie lette dallo stesso autore. Sentiamone una. Rima privata. Poesie lette alla radio. Possibile che non sia dato compiere la più minuta azione senza che il tempo venga a riscuotere usuraio atroce la sua parte, con interessi sempre più spropositati, esponenziali, demenziali, ogni giorno di più, da capogiro, sempre più rapidi, rapienti capogiri. Anche per oggi è tutto, un saluto da Alessandra Tedesco.